ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte, traduzione di Margherita Giacobino. 1802. In settembre sono stato invitato a fare razzia nella brughiera di un mio amico, su nel nord, e mentre ero in viaggio verso la sua proprietà, mi sono trovato, senza rendermene conto, a meno di 15 miglia da Gimmerton. Mi prese un impulso improvviso di andare alla Grange. Non era ancora mezzogiorno e pensai che avrei anche potuto passare la notte sotto un tetto mio, anziché in una locanda. E poi non sarebbe stato un problema fermarmi un giorno di più e sistemare i miei affari col padrone di casa, risparmiandomi così il fastidio di dovergli piombare addosso un'altra volta. Raggiunsi la Grange prima del tramonto e bussai, ma la gente di casa si era ritirata nel retro e non mi sentivano. Entrai nel cortile. Sotto il porticato una ragazzina di 9 o 10 anni stava seduta a lavorare a maglia, mentre una vecchia, sdraiata sui gradini della stalla, fumava pensierosa la pipa. «È in casa la signora Dean?» chiesi all'anziana dama. «La signora Dean? No», mi rispose. «Non abita qui, è a Cime tempestose». «Allora è lei la governante?» proseguii. «Sì, sono io che vado alla casa», rispose. «Bene, io sono il signor Lockwood, il padrone. C'è qualche stanza pronta per alloggiarmi? Intendo passare la notte qui». «Il padrone!» gridò lei esterrefatta. «Ma come? Ma chi sapeva che arrivava? Avrebbe dovuto mandarlo a dire. Non c'è niente di asciutto né di pronto in tutta la casa. Non c'è proprio niente». Si tolse di bocca la pipa e si precipitò dentro, con la ragazzina al seguito. Le dissi di non agitarsi, che me ne sarei andato a fare un giro, e nel frattempo lei avrebbe cercato di prepararmi la cena in un angolo del salotto e una camera da letto per dormire. Non era necessario che spazzasse o spolverasse, volevo solo un buon fuoco e lenzuola asciutte. La meta della mia escursione era Cime tempestose. Camminai senza fretta, con il bagliore del sole al tramonto dietro di me e di fronte il tenue splendore della luna che sorgeva. Prima che arrivassi in vista a Cime tempestose, tutto ciò che restava del giorno era una luce ambrata e soffusa a occidente, ma sotto quella luna splendente riuscivo a vedere chiaramente ogni sasso sulla strada e ogni filo d'erba. Non fui costretto a scavalcare il cancello né a suonare. Si aprì appena lo toccai. Porte e finestre erano aperte, ma come spesso accade nelle zone ricche di carbone, una bella fiamma rosseggiante illuminava il camino. È un così bello spettacolo quel fuoco che lo si sopporta anche se scalda troppo. La sala di Cime tempestose, però, è così vasta che chi ci abita ha molto spazio per non stare a ridosso delle fiamme. Infatti, gli abitanti presenti in quel momento si erano sistemati vicino a una finestra. Prima di entrare li vidi e li sentì parlare. Perciò mi misi a osservare e ad ascoltare, spinto da una curiosità unita a una crescente invidia. «Contrario», disse una voce dolce come il rintocco di una campanella d'argento. «È la terza volta, asino. Guarda che non te lo dico più. Ricordatene o ti tiro i capelli». «Contrario, allora», rispose un'altra voce profonda. «E adesso dammi un bacio perché ho imparato bene». «No, prima rileggilo come si deve, senza fare un solo errore». La voce maschile cominciò a leggere. Apparteneva a un giovanotto vestito in modo inappuntabile e seduto davanti a un libro aperto sul tavolo. I suoi bei lineamenti risplendevano di piacere e i suoi occhi continuavano a spostarsi irrequieti dalla pagina a una manina bianca che era posata sulla sua spalla e che lo richiamava con uno schiaffetto sulla guancia ogni volta che la proprietaria della mano lo trovava distratto. La proprietaria della mano stava in piedi dietro di lui e quando si chinava per indicargli qualcosa, I suoi lucenti riccioli chiari si confondevano con i capelli castani di lui e il suo viso. Era una fortuna che lui non potesse vedere il suo viso, altrimenti non avrebbe potuto dedicarsi al libro. Sulla porta sedeva la mia vecchia amica, la signora Dean, intenta a cucire e a cantare una canzone. Quando io mi feci avanti, mi riconobbe subito e saltò in piedi gridando: «Ma è il signor Lockwood! Che il cielo la benedica! Come le è venuto in mente di tornare così all'improvviso? Alla Grange è tutto chiuso, avrebbe dovuto avvisarci!» «Ho già sistemato tutto per alloggiare là, finché mi fermo», risposi. «Riparto domani. E com'è che lei si è trasferita qui, signora Dean? Mi racconti?» Fui chiamata a Cime Tempestose 15 giorni dopo la sua partenza e ci andai volentieri per amore di Catherine. La prima volta che la vidi ne fui colpita e addolorata. Da quando ci eravamo lasciate era diventata un'altra persona. Il signor Heathcliff non spiegò per quale motivo avesse cambiato idea circa la mia presenza qui. Mi disse solo che mi voleva e che era stufo di vedere Catherine. Dovevo sistemarmi nel salottino e tenerla con me. Per lui era già abbastanza essere obbligato a vederla una o due volte al giorno. Sembrava che a lei questa soluzione piacesse. Un po' alla volta riuscii a far entrare clandestinamente un buon numero di libri e altre cose che alla Grange erano la sua passione, e mi illusi che saremmo state abbastanza bene. Ma l'illusione non durò a lungo. Catherine, che al principio era contenta, diventò ben presto irritabile e inquieta. Prima di tutto, le era proibito oltrepassare il giardino e rimanere confinata in quegli stretti limiti proprio mentre stava arrivando la primavera la rendeva triste e insofferente. Inoltre, per le faccende di casa, ero costretta ad allontanarmi spesso e lei si lamentava della sua solitudine. Preferiva litigare con Joseph in cucina piuttosto che starsene sola e tranquilla. Io non facevo caso ai loro battibecchi, ma Ayrton era spesso costretto a rifugiarsi in cucina anche lui, quando il padrone voleva avere la sala tutta per sé. E benché in principio lei se ne andasse non appena lui arrivava, oppure si mettesse ad aiutarmi in silenzio, evitando di fare commenti o di rivolgergli la parola, e benché lui fosse sempre il più possibile taciturno e cupo, dopo un po' lei cambiò atteggiamento e diventò incapace di lasciarlo stare. Gli parlava, faceva commenti sulla sua stupidità e sulla sua pigrizia, si meravigliava di come potesse tollerare una vita così, come facesse a passare un'intera serata a fissare il fuoco e a sonnecchiare. «È proprio come un cane, non è vero, Ellen?» mi disse una volta. «O un cavallo da tiro. Fa il suo lavoro, mangia e dorme. Sempre così. Che razza di testa vuota e noiosa deve avere? Non sogni mai, Ayrton? E se sogni, che cosa sogni? Ma se non sei neanche capace di parlare con me?» Poi lo guardò, ma lui non aprì bocca e non ricambiò lo sguardo. Il signor Heathcliff, che diventava sempre più misantropo, aveva quasi bandito Ayrton dalla sala e questi, a causa di un incidente, all'inizio di marzo restò per alcuni giorni confinato in cucina. Mentre era sulle colline, gli era esploso il fucile e una scheggia lo aveva ferito al braccio e aveva perso molto sangue prima di arrivare a casa. Di conseguenza, fu obbligato, lo volesse o no, a starsene tranquillo accanto al fuoco fino a che non si fosse ripreso. A Catherine andava bene averlo lì. «Ho scoperto, Ayrton, che sarei felice, che mi piacerebbe che tu sia mio cugino adesso, se non fossi sempre così arrabbiato con me e così scortese». Ayrton non rispose. «Ayrton! Ayrton! Ayrton! Mi senti?» continuò. «Va via», ringhiò lui più che mai scontroso. «Fammi prendere questa pipa», disse lei, allungando cautamente la mano e togliendogliela di bocca. Prima che lui potesse tentare di riprendersela, era nel fuoco in pezzi. Ayrton la insultò e ne prese un'altra. «Fermati», gridò lei, «prima devi ascoltarmi, e io non posso parlare con quelle nuvole di fumo in faccia». «Ma vattene al diavolo», esclamò lui ferocemente, e lasciami in pace. No, insistette lei, non ti lascerò in pace. Non so più che cosa devo fare per convincerti a parlarmi. E tu sei ben deciso a non capire. Quando dico che sei stupido, non voglio dire niente di male. Non significa che ti disprezzo. Su, Ayrton, ammetti che ci sono anch'io. Sei mio cugino, non puoi rinnegarmi. Io non voglio avere niente a che fare con te, con il tuo sporco orgoglio e con i tuoi dannati trucchi per prendermi in giro, rispose lui. Me ne andrò all'inferno, anima e corpo, prima di degnarti ancora di un'occhiata. E ora togliti di mezzo immediatamente. Catherine, accigliata, si ritirò sulla panca nel vano della finestra, mordendosi le labbra e canticchiando una canzoncina strampalata per nascondere la voglia di piangere. Dovrebbe fare amicizia con sua cugina, signor Ayrton, intervenni io, visto che lei si è pentita della sua insolenza. Avere un'amica sarebbe una gran bella cosa. Farebbe di lei un altro uomo. Un'amica? Ribatté lui. Ma se mi odia e pensa che non sono neppure degno di pulirle le scarpe. No, nemmeno se facesse di me un re, non mi renderò più ridicolo cercando di rientrare nelle sue grazie. Non sono io che ti odio, sei tu che odi me, singhiozzò Cati, senza più nascondere il suo stato d'animo. Tu mi odi quanto mi odia Heathcliff, e anche di più. Sei una maledetta bugiarda, cominciò Ayrton. E allora perché l'avrei fatta arrabbiare 100 volte, mettendomi dalla tua parte? E tutto questo mentre tu mi umiliavi e... Se non la smetti di darmi fastidio, vado di là e gli dico che mi hai costretto ad andarmene dalla cucina. Non sapevo che tu eri dalla mia parte, rispose lei, asciugandosi gli occhi. E poi ero tremendamente infelice e ce l'avevo con tutti. Ma adesso ti dico grazie e ti prego di perdonarmi. Che altro posso fare? Tornò accanto al camino e gli tese la mano con franchezza. Lui fece la faccia scura, mise su un cipiglio da tuoni e fulmini e tenne i pugni risolutamente stretti e lo sguardo fisso a terra. Catherine deve aver sentito istintivamente che la sua testardaggine non era dovuta ad antipatia per lei, ma a un eccesso di diffidenza e caparbietà. E così, dopo essere rimasta per un attimo perplessa, si chinò e gli diede un lieve bacio sulla guancia. La birichina pensava che io non l'avessi vista. Si scostò e tutta seria andò a rimettersi accanto alla finestra. Io scossi la testa con disapprovazione. Lei arrossì e sussurrò. «Beh, ma che cosa avrei dovuto fare, Ellen? Non voleva stringermi la mano, non voleva guardarmi in faccia. Dovevo dimostrargli in qualche modo che gli voglio bene e che voglio essergli amica». Non saprei se quel bacio convinse Ayrton. Per qualche minuto fece molta attenzione a non farsi vedere in faccia e quando infine alzò la testa era imbarazzatissimo e non sapeva dove guardare. Catherine si diede da fare ad avvolgere per bene un bel libro in una carta bianca e dopo averlo legato con un nastro e indirizzato al signor Ayrton Earnshaw mi chiese di farle da ambasciatrice e consegnare il regalo al suo destinatario e digli che se lo accetta gli insegnerò a leggere bene, aggiunse. Una sera, mentre loro due studiavano e io li ammiravo, tornò il padrone. Ci colse alla sprovvista, entrando dalla porta principale, ed ebbe una visione completa di noi tre prima che potessimo alzare gli occhi e guardarlo. Bene, pensai, è una scena delle più piacevoli e innocenti, e sarebbe proprio una vergogna rimproverarli. Le loro belle teste erano illuminate dai riflessi rossi delle fiamme, che rivelavano due facce animate da un entusiasmo infantile, perché nonostante lui avesse 23 anni e lei 18, per entrambi la novità di ciò che stavano vivendo e imparando era così forte che nessuno dei due provava o dimostrava sentimenti della sobria, disincantata maturità. Alzarono gli occhi contemporaneamente e incontrarono lo sguardo del signor Heathcliff. Forse lei non ha mai notato che i loro occhi sono assolutamente uguali e sono quelli di Catherine Earnshaw. L'attuale Catherine non le somiglia in nient'altro, a parte la fronte ampia e un certo inarcamento del naso che le dà un'aria altezzosa, lo voglia o no. Ma in Ayrton la somiglianza è più marcata. È sempre straordinaria, ma in quel momento era ancora più evidente, perché i suoi sensi si erano risvegliati e le sue facoltà mentali erano insolitamente attive e impegnate. Penso che sia stata questa somiglianza a disarmare il signor Heathcliff. Mentre si avviava verso il camino, era in un evidente stato di agitazione, ma mentre osservava il giovane si calmò subito, o meglio, la sua agitazione si trasformò in qualcos'altro, perché non scomparve. Gli prese il libro dalle mani e diede un'occhiata alla pagina aperta. Poi lo restituì senza dire nulla. Si limitò a fare cenno a Catherine di andarsene. Ayrton non tardò molto a seguirla e anch'io stavo per uscire, ma lui mi disse di restare. «Che misero finale, non ti sembra?» rifletté dopo aver meditato per un po' sulla scena che aveva visto. «Che conclusione assurda! Per tutta la violenza dei miei sforzi. Mi procuro leve e picconi per demolire entrambe le case, mi alleno ad affrontare le fatiche di Ercole e quando tutto è pronto e in mio potere, scopro di non avere più voglia di sollevare nemmeno una tegola da nessuno dei due tetti. I miei nemici di un tempo non mi hanno sconfitto, ora sarebbe il momento giusto per vendicarmi sui loro discendenti. Potrei farlo e nessuno potrebbe impedirmelo. Ma a che servirebbe? Non ho più il desiderio di colpire. Non vale la pena di alzare la mano. Sembra proprio che io abbia fatto tanta fatica per tutto questo tempo, solo per fare poi un bel gesto di magnanimità. Ma non è affatto così. È che ho perso la capacità di godere della loro distruzione e sono troppo pigro per distruggere senza motivo. 5 minuti fa, Ayrton non mi sembrava un essere umano, ma l'incarnazione della mia giovinezza. I sentimenti che provavo per lui erano così tanti e così diversi fra loro che mi sarebbe stato impossibile trattarlo in maniera razionale. Prima di tutto, la sua impressionante somiglianza con Catherine lo associava a lei in un modo spaventoso. Ma questa, che potrebbe sembrarti la cosa che fa più presa sulla mia immaginazione, in realtà è la meno forte, perché che cosa c'è che non sia associato a lei? Non posso guardare questo pavimento senza vedere i suoi lineamenti prendere forma nelle lastre. In ogni nuvola, in ogni albero vedo la sua immagine. L'aria della notte ne è satura. Di giorno io la scorgo in ogni oggetto, ne sono circondato. Le facce più comuni di uomini e donne, la mia stessa faccia, mi deridono con illusorie somiglianze. Il mondo intero non è altro che una terribile collezione di ricordi del fatto che lei è esistita e che io l'ho perduta. Ebbene, Ayrton era il fantasma del mio amore immortale, dei miei sforzi disperati di non perdere il mio diritto. La mia umiliazione, il mio orgoglio, la mia felicità, la mia angoscia. Ma è una follia ripetere a te questi pensieri. Servono solo a farti capire perché, anche se non mi piace restarmene sempre solo, la sua compagnia non allevia, anzi, peggiora il tormento continuo che soffro. E questo contribuisce in parte a rendermi indifferente ciò che accade tra lui e sua cugina. Non posso più dedicare la mia attenzione a loro, ormai. Ma che cosa intende con cambiamento, signor Heathcliff? Disse allarmata dal suo modo di parlare, anche se non era certo in pericolo di ammattire o di morire. A mio parere era nel pieno della forza e della salute, e quanto alle sue facoltà mentali, fin da piccolo gli piaceva sprofondare in cupe lucubrazioni e strane fantasie. Poteva anche avere una vera e propria ossessione per il suo idolo defunto, ma su tutto il resto i suoi sensi erano a posto quanto i miei. «Non lo saprò finché non arriverà», disse. «Ora non lo avverto che in parte». «Non si sente qualche malattia, vero?» chiesi. «No, Nelly», rispose. «Allora non avrà mica paura di morire?» continuai. «Paura? No», rispose. «Non ho né paura né presentimenti, né alcuna speranza di morire. Perché dovrei averne? Con il mio fisico robusto, la mia vita senza eccessi e le mie attività senza rischi, dovrei restare su questa terra e probabilmente ci resterò finché avrò i capelli bianchi. Eppure, non posso andare avanti così. Devo ricordare a me stesso di respirare. Devo quasi ricordare al mio cuore di battere. Ed è come tenere compressa una molla d'acciaio. Ogni minima azione che non sia dettata da quell'unico pensiero, io la faccio perché mi costringo, e solo perché mi ci costringo noto tutto ciò che vivo o morto non è connesso a quella sola idea che occupa tutto l'universo. Ho un solo desiderio, è una tensione che dura da tanto tempo, ed è così assoluta che sono convinto che verrà realizzato. E presto, perché ha divorato la mia esistenza, sono totalmente inghiottito dall'attesa che si realizzi. La mia confessione non mi ha dato sollievo, ma può servire a spiegare qualche mio sbalzo d'umore che altrimenti sarebbe incomprensibile. Oddio! È una battaglia lunga e vorrei che fosse finita. Cominciò ad andare su e giù per la stanza, brontolando cose tremende fra sé, finché cominciai a pensare come Joseph, che la coscienza avesse trasformato il suo cuore in un inferno. Non sapevo proprio come sarebbe andata a finire. Anna Maria Guarnieri ha letto Cime tempestose di Emily Bronte, traduzione di Margherita Giacobino, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio, regia di Jonathan Zenti. Per riascoltare il programma radio3.rai.it, per scaricarlo raiplayradio.it.